America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Giornata drammatica ieri in Senato a Washington. Donald Trump si era recato al Campidoglio per cercare di trovare una linea comune con i suoi compagni di partito sulla riforma fiscale. In realtà si è trovato in una piccola imboscata. Perché? Perché un paio di senatori, uno direttamente al Senato, suoi compagni di partito repubblicani, lo hanno attaccato duramente. In particolare Jeff Flake, senatore dell'Arizona, è stato durissimo nei confronti di Trump, ha pronunciato un discorso che qualcuno ha definito storico al Senato, un discorso di 17 minuti, solenne, in cui ha attaccato l'operato dell'amministrazione, ma ha anche attaccato l'operato della leadership del partito, che dice lascia che le cose vadano avanti in modo del tutto inaccettabile. E dunque sentiamolo. Mr. President, I rise today to say enough. We must dedicate ourselves to making sure that the anomalous never becomes the normal. Ecco, avete sentito Flake, signor Presidente, ha detto, si rivolgeva al Presidente dell'Assemblea, del Senato in quel momento, dice, oggi dico basta, dobbiamo impegnarci per fare in modo che l'anomalia, ovvero questo atteggiamento sconsiderato, oltraggioso di fare politica, non diventi la normalità. Vi dicevo che ha attaccato anche la leadership del suo partito, ha deplorato il fatto che ci sia questa minaccia continua, casuale, degli ideali democratici, che ci siano questi attacchi personali, che ci sia una minaccia continua contro i principi di libertà, contro l'istituzione, contro, ha detto, questo flagrante disprezzo della verità e della decenza, che, ha detto, è diventato ormai un modo di essere così prevalente nella politica americana. Per Donald Trump c'è un problema, perché questo è il terzo senatore che si aggiunge alla lista di coloro schierati contro di lui in modo molto diretto dal punto di vista ideologico. Dopo Flake c'è Corker, ricorderete il senatore Corker del Tennessee, ma naturalmente c'è anche John McCain. John McCain è decisamente schierato contro Donald Trump. Ecco, sentiamo Corker, perché anche lui ieri ha attaccato Donald Trump. Much of what he says is untrue. Certainly people here are, because these things are provably untrue. I don't know why he lowers himself to such a low standard. Ecco, Corker in questa intervista alla CNN accusa Donald Trump di essere inadatto a svolgere il ruolo di Presidente degli Stati Uniti, lo ha accusato di degradare l'immagine dell'America nel mondo, di avere un grosso problema con la verità e di aver guastato in modo quasi irreparabile, sostiene, le relazioni americane con altri paesi. La polemica tra i due, tra l'altro, era già cominciata prima, appunto, nelle televisioni dell'incontro a Capitol Hill, e questo ha dato tempo a Trump di rispondere come fa lui, insomma, in modo, come sempre, aggressivo. E dunque, a un certo punto, Trump su Corker dice ma quello non potrebbe neanche essere eletto come accalappiacani in Tennessee, perché anche Corker ha annunciato, come ha annunciato del resto il senatore Flake, che si ritirerà nel 2018. Trump, naturalmente, ne approfitta per dire certo che si ritirano, io gli ho tolto il mio appoggio, loro si sono schierati contro di me e io mi sono schierato contro di loro, però non è detto che vinca poi davvero un repubblicano, a meno che davvero non vada poi a vincere un uomo di Trump, e questo potrebbe destare qualche preoccupazione, perché significa che l'elettorato dà ragione a questo presidente, che in effetti non si sta comportando nel migliore dei modi se dobbiamo guardare a quella che è stata la tradizione della presidenza americana negli ultimi 50-60 anni. E che è successo? Che Corker, all'accusa che lui non potrà neanche essere eletto come accalappiacani, ha fatto a sua volta un tweet, dice allertare lo staff della Casa Bianca, chiamate la Croce Blu per la cura per gli anziani, per coloro che non sono molto stabili. We're here to discuss our plan to deliver historic tax cuts for American families, businesses, workers. It will be the largest tax cut in the history of our country. Trump qui dice dobbiamo semplificare il più possibile il fisco, questo l'ha già detto mille volte naturalmente, ma ha puntato soprattutto sul rientro di 4.000 miliardi di dollari che sono parcheggiati all'estero dalle corporation americane. Come lo vuol fare? Riducendo la tassa per il rientro di questi capitali al 10% dal 35%. C'è però un problema sul piano politico, ve l'avevo accennato ieri, il presidente Donald Trump vuole confermare il 401k, che è, chiamiamolo, una sorta di TFR, non è un TFR, ma per darvi un'idea di che cosa si tratta, è un programma per il risparmio da parte dei lavoratori americani che nel corso degli anni possono mettere da parte dei soldi deducendoli dal loro stipendio senza pagare le tasse, poi le tasse le pagano alla fine. Siccome occorre trovare una compensazione per questi tagli fiscali, e beh, qui la coperta è stretta, per cui se dai dei soldi da una parte li devi togliere dall'altra. E dunque su questo tema del 401k c'è qualche problema, perché i repubblicani puntavano su questo per poter recuperare un po' di liquidità e non l'avranno. Tutto questo per dirvi che a parole sono tutti contenti, in realtà il problema c'è, e io credo che forse Donald Trump qui stia cercando di organizzare un ponte magari coi democratici per cercare una maggioranza trasversale per poter fare qualche cosa che non vada a penalizzare il grosso degli americani, milioni di americani, come farebbe un'abolizione o comunque un tetto molto più limitato sulle deduzioni per il 401k. Ecco, in tutto questo non si è soltanto discusso di riforma fiscale, si è discusso anche di nomina alla Fed. Donald Trump ha fatto una specie di alzata di mano, diceva: vediamo dove sono orientate le vostre preferenze. Non sappiamo come è andata, perché sembra che questa alzata di mano sia stata poi un po' confusa, però sappiamo che a questo punto ci sono due candidati in corsa nella pole position finale: Jerome Powell, che è un membro dell'attuale consiglio della Federal Reserve, e John Taylor, che è un professore di economia a Stanford. Sono agli estremi opposti, perché Jerome Powell difende e porterà avanti la linea della Yellen, una linea prudente, una linea che ha allargato enormemente i cordoni della borsa per cercare di portare liquidità al mercato, mentre John Taylor vorrebbe un aumento immediato dei tassi di interesse, sostiene che la Fed ha sbagliato ad allargare i cordoni della borsa quando ci fu la crisi del 2007-2009, eppure Taylor è sostenuto da molti repubblicani. Perché? Perché questi repubblicani, un po' falchi, vorrebbero togliere quei margini di autonomia, di libertà di cui ha sempre goduto la Federal Reserve. Dunque la partita è piuttosto delicata, perché non si tratta soltanto di scegliere un nome, ma si tratta di scegliere per il futuro, per il ruolo futuro della Banca Centrale degli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 5-7 novembre Francesco De Gregori salirà per la prima volta su un palco americano a New York, interpreterà le sue canzoni di Bob Dylan, ne ha tradotte alcune. Fra le varie canzoni c'è anche Via della Povertà, che è tradotta da Desolation Row, una canzone appunto di Bob Dylan. Via della Povertà, povertà di che cosa? Beh, riproiettandola sull'America, questa povertà di valori, povertà di dibattito, povertà di trasparenza, l'abbiamo visto in una summa, in quello che è successo nella giornata di ieri. E dunque sentiamo Bob Dylan direttamente invece di De Gregori con Desolation Row. They're selling postcards of the hanging, painting the passports brown, beauty parlors filled with sailors, circuses in town. Here comes a blind commissioner, got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, and the other is in his pants. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!